B. In macchina. 1. Ascolta la seconda parte del dialogo. Bravo! Hai parcheggiato vicino all'ingresso. Sei un mago. Hai spazio per sederti? Più o meno. Basta togliere questa borsa. Scusa, ma ti serve proprio quella borsa? Che cosa c'è dentro? Beh, hai ragione. È scomodo portarsi dietro tutto questo peso, ma qui dentro ho tutte le chiavi. Ufficio, casa, casa dei miei, macchina. Ho i miei documenti, il telefonino, un po' di giochi per la bimba, la macchina fotografica digitale. Eh sì, è sempre pienissima. Non è meglio liberarsi di tutte quelle chiavi? Pesano tantissimo. No, no, scherzi. Se devo ricordarmi ogni giorno di prendere il mazzo di chiavi dell'ufficio o quelle di casa dei miei, non parto mai. Poi, scusa, non ti succede di lasciare qualcosa a casa e poi averne bisogno? No, no, porto tutto con me. Non è per niente pratico, ma fai come preferisci. Appunto, non devi preoccuparti di queste cose. Su, è ora di partire. Oh, non ho preso la giacca. Il matrimonio è all'aperto. Salgo a prendere una giacca. Faccio subito. Ehi, si avvicinano i nostri vicini di casa, i signori bianchi. Fai presto? Non ci metti tanto, vero? Zitto, piano. Si sveglia la piccola. Ma io non ho parlato. Vedi com'è bella. Sì, è davvero bellissima. Complimenti e auguri. Grazie, signor Bianchi. Vedi che bei piedini. Mm-hmm. Come ti chiami, piccola? Oh, ecco la mamma. Ecco la mamma. Prontissima. Arrivederci, signora. Buonasera, signori bianchi. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.